jestem misfato. Desolandia Express sopra il piatto. Lo sai, bella Afgan, bella kraj. Giù nel bunker, lo sai man, lo sai man, lo sai man. La sento dentro l'incoscienza che parla da sola. Il cielo tuona e il mio cervello si abbandona. La vibrazione mi infetta il cromosoma. E niente di certe esperienze ora s'accantona. È l'impatto violento in un mondo diverso, dove ti salva l'estro, dove cambia il contesto, dove il tuo del resto non fa testo con il testo, dove a volte casca in testa l'universo. È la strada che percorro ogni mattina, con le cuffie in testa e con in bocca un'altra rima. Il cappuccio passo, ondeggia ad ogni passo, io mi risollevo anche se mi sento uno straccio. È l'impaccio che superi nei primi tempi, quando non ti arrendi e stringi l'ansia tra i denti. È lo sguardo delle persone diffidenti in collisione forzata basata sui commenti. È la fotta che porto con me sopra il palco, spinto dalla sensazione che non c'è nient'altro. Come un foglio lo calco, come un muro lo marco, come fonte di espansione io non lascio in bianco. Sana incoscienza, strana condensa, tu nasa la causa e capisci l'udienza. Sana coerenza, santa pazienza, ma frana la trama se va intermittenza. Sana prudenza, si ingrana la terza, ma salta e traballa pure la distanza. Sana potenza, piena efficienza, sta roba comuna più che una mensa. Non ci posso fare niente, è lei che dirige, dove si sfoga maggiormente nelle mie nottate grigie, dove scrivo apertamente ciò che lei mi dice, dove espando la mia voce sulla superficie. E pochi tratti di vernice sussurrano la matrice, non è sicuramente ciò che t'aspettavi. Ma almeno un altro che si salva dagli ignavi. Credo che sia la direzione che scegli per dare valore alla tua opinione, dove totalmente autogestione, gestita dalla mente in rimozione, forzata dall'ambiente in discussione, discusso come sempre dalle persone che bussano le tempie senza ragione. Ma chi non vede ciò che sente preda dell'autodistruzione. Sana incoscienza, strana condensa, tu nasa la causa e capisci l'udienza. Sana coerenza, santa pazienza, ma frana la trama se va intermittenza. Sana prudenza, si ingrana la terza, ma salta e traballa pure la dispensa. Sana potenza, piena efficienza, sta roba comuna più che una mensa. Questo suono che m'attira calamita per esporre, è il meccanismo che si innesca quando occorre. È quel frammento che cercavi per comporre, è quel battente che mentre rapisce si diffonde. Secondo me si nasconde dentro un beatbox, dove corrompe l'MC che tira sullo show, dove si tira il calcio in culo a questi finti boss, dove non guidi questo mezzo manco con la cloche. La trovi dentro un incastro all'ultimo momento, come al breaker che gira sulle braccia in centro, come al writer che dipinge il suo talento, come lo spettatore che muove il collo a tempo. E la sento che ora picchia sopra una provincia, dove il cielo resta cupo tra la nebbia fitta, dove i cristiani tra le mani c'hanno drinkard, dove si passano delle clavi come film. Sana incoscienza, strana condensa, tu nasa la causa e capisci l'udienza. Sana coerenza, santa pazienza, ma frana la trama se va intermittenza. Sana prudenza, si ingrana la terza, ma salta e traballa pure la dispensa. Sana potenza, piena efficienza, sta roba comuna più che una mensa.